chiediamo un incontro urgente col Presidente del Consiglio per assicurarci che attraverso un confronto e una leale collaborazione ci siano le condizioni per erogare i servizi fondamentali per i cittadini, che con l'attuale legge di stabilità tali condizioni non ci sono. Diversamente, per le regioni diventa chiaro che è lo Stato che sarà responsabile di rispondere su questi servizi fondamentali. Siamo a un punto cruciale, vogliamo interpretarlo con rigore e serietà, ma è giusto che ci siano risposte nuove. Per questo chiediamo al Presidente Monti un impegno nuovo. Occorre intanto riportare almeno le risorse al fondo del 2012, perché noi stiamo parlando di una riduzione secca del fondo rispetto al 2012. È la prima volta che questo succede nella storia di questo paese. Non è sostenibile. Tutte le regioni rischiano il default. E questo rappresenta per il paese, per il governo e per lo Stato centrale un problema enorme, una sconfitta, un passo indietro rispetto al patto della salute, che pure ha consentito di governare la spesa sanitaria, così come ha sottolineato la Corte dei Conti più volte. Per favore, non facciamo passi indietro, ma troviamo il modo per garantire questi servizi.